Erano 44 anni dalle furie rosse di Luisito Suarez che seppero battere l'Unione Sovietica che la Spagna non trionfava nel campionato europeo. A spezzare l'incantesimo nella notte del Prater di Vienna, una prodezza di Fernando Torres, che ha regalato così agli iberici il secondo titolo continentale della loro storia. Stavolta i protagonisti sono Fabregas, Iniesta, Xavi e soprattutto Fernando Torres. È proprio il centravanti del Liverpool, cresciuto nell'Atletico Madrid insieme a quell'aragonese che ora ha portato gli iberici sul tetto d'Europa a firmare l'1-0 che decide la sfida coi tedeschi. È il 33esimo quando il Niño beffa Lehmann in uscita, insaccando un preciso assist di Xavi, e dire che era stata proprio la Germania a partire meglio, ma poi gli iberici hanno preso in mano la partita. Metzelder ha sfiorato l'autogol, lo stesso Torres ha colpito un palo e poi segnato il gol decisivo. Nella ripresa l'orgoglio di Balla che compagni non basta, la Coppa va alla Spagna e averla costretta ai calci di rigore nei quarti di finale diventa così l'unica soddisfazione, piena di rimpianti, dell'ultima Italia firmata Donadoni. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore.